Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, oggi in diretta da Bologna, da Autopromotec, fiera internazionale tra le più importanti al mondo dell'aftermarket automobilistico, e sarà a questo appuntamento e soprattutto al tema della componentistica auto, dei rischi che corre il settore soprattutto a causa della Brexit, ma non solo, anche come dire, cercheremo di fare una valutazione dello stato di salute del settore, giusto per darvi un'idea dal punto di vista dei numeri, ma appunto tra poco ci arriveremo. La componentistica del settore automotive in Italia nel 2016 contava circa 2.000 imprese per 136.000 addetti. Questi sono i numeri di cui stiamo parlando, quindi non numeri piccoli. Appunto, c'è a Bologna questa fiera biennale dalla quale vi stiamo trasmettendo in questo momento, che si occupa anche non solamente di questo. È un buon momento per cercare di fare il punto sul settore, su un settore industriale importante per la nostra economia. Parleremo di questo, non ci faremo mancare nemmeno noi, così come ha fatto Oscar Giannino, perché è il grande tema di giornata, senza ombra di dubbio, la vicenda del TAR, la decisione del TAR del Lazio, che come ormai sapete dai GR, dalla trasmissione di Oscar, e poi torneremo a parlarne insomma anche nelle prossime ore, ha preso questa decisione che riguarda le nomine dei direttori dei musei, quelle fatte dal ministro Dario Franceschini. Sono delle nomine, alcune di queste nomine sono state giudicate dal TAR del Lazio illegittime. Qua, come al solito succede, come spesso succede in questo paese, ci si divide pro e contro TAR del Lazio. Noi, dal nostro punto di vista, come facciamo sempre, andremo a vedere che cosa è successo da un punto di vista, per così dire, strettamente normativo, e poi cercheremo di allargare un po' di più il discorso al tema più in generale della pubblica amministrazione. E certo, è curioso, perché per chi ha ascoltato oggi Effetto Giorno, abbiamo ospitato un noto amministrativista, il professor Clarici, il quale ci diceva: occhio che il TAR, in realtà potete anche arrabbiarvi con il TAR, ma il TAR tutto sommato non ha torto, perché nella legge per la nomina di questi direttori dei musei non è stata prevista una deroga alla norma che prevede che i dirigenti pubblici debbano essere italiani. Dall'altra parte si dice ci sono le normative europee, la libera circolazione, quindi queste persone potrebbero lavorare in Italia, e vabbè, così siamo e andremo al Consiglio di Stato. Di certo è curioso che questa deroga non sia stata espressamente prevista all'interno di questa legge, e qua le imputazioni possono essere tante. Si può ragionare su come sia stata dal punto di vista politico, perché ricordiamoci anche che l'attuale ministro dei beni culturali è stato sottosegretario alla funzione pubblica negli anni nei quali tra l'altro si riformava il sistema di dirigenza pubblica, e quindi forse qualcosa ne avrebbe dovuto sapere. Dall'altra parte poi c'è sempre la manina del funzionario e del burocrate che magari per tutelare il dirigente come lui, che cosa fa? Mette la cosa che consente il ricorso. Anche questa è una scena tipicamente italiana e che spesso abbiamo visto. Ci occuperemo naturalmente anche di questa vicenda. Non vi faremo mancare un aggiornamento per quanto riguarda le due banche venete. Ieri è stata una serata piuttosto tesa, quasi di panico direi, tra i vertici delle banche venete, che sono uscite parliamo di Veneto Banca di Popolare Vicenza, che sono uscite dall'incontro con la Commissione Europea con un fronte di forte preoccupazione, dicendo attenzione qua, quasi si sembra che si fosse a ridosso del bail-in. Oggi hanno incontrato i vertici il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il quale ha rassicurato, ha detto lo Stato è pronto eventualmente a garantire liquidità, l'ipotesi del bail-in non esiste. Di certo una preoccupazione da questo punto di vista esiste. Per quanto riguarda i mercati, e anche questo come sempre sarà uno dei nostri argomenti, la giornata è negativa e va avanti così da tutto il giorno: meno 0,45% il FTSE MIB, meno 0,35% il FTSE O'Share, Parigi che cede lo 0,02%, Francoforte lo 0,16%, Londra in guadagno dello 0,09%. Per quanto riguarda l'America è positiva, Dow Jones più 0,42%, Standard & Poor's 500 che guadagna mezzo punto percentuale. A pesare sull'andamento milanese sono, in questo caso e proprio a fronte delle preoccupazioni che si sono manifestate tra ieri e oggi, sono proprio le banche. BPM cede il 3,02%, Unibanca il 2,22%, Intesa San Paolo l'1,19%, e certo abbiamo anche Ferragamo che cede il 4,06% e Saipem il 2,6%, così come Eni che cede l'1,67%. Questo il quadro delle notizie delle quali ci occuperemo oggi. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, e non mandateci WhatsApp oggi perché siamo in esterna e non poi un giorno l'aggiusteremo questa cosa, che non possiamo vedere i messaggi che ci arrivano su WhatsApp quando siamo in esterna, però mandateci solamente i vecchi sms oppure delle missive se credete. Le notizie in breve di oggi. Ricominciamo la solita gag. Sebastiano Barisoni torna domani. Tranquilli, tranquilli, nessun problema. Iniziamo come sempre dal petrolio, che le cui quotazioni adesso vado a recuperare. In calo il WTI, quello quotato a New York, con consegna a luglio a 50,8 dollari al barile. Per quanto riguarda il Brent siamo a 53,5, anche qua c'è un calo. Nonostante l'OPEC abbia raggiunto l'accordo per prorogare di altri 9 mesi i tagli alla produzione del petrolio, questo secondo quanto riferito da Bloomberg, da uno dei delegati che partecipa al vertice di Vienna della stessa OPEC. Evidentemente il mercato non ci crede un granché, oppure evidentemente non gli basta. Oro in rialzo, più 0,5% a 1258 dollari l'once. Sono usciti i consueti verbali, in realtà ieri sera, della riunione della Federal Reserve del 2 e 3 maggio, nei quali si legge che un aumento dei tassi di interesse è appropriato a breve, e una riduzione graduale del bilancio della Federal Reserve dovrebbe iniziare quest'anno. Questo si legge nelle minute, nei verbali appunto della riunione della Fed. La questione delle banche, bene, oggi ci arriveremo nella seconda parte della trasmissione intorno alle 18:20, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha allontanato l'ipotesi di un bail-in per la Popolare di Vicenza e per Veneto Banca. Il timore era emerso, come si diceva, dopo l'incontro di ieri a Bruxelles, nel quale la Commissione europea ha confermato la richiesta di 1 miliardo in più di capitali privati per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale dei due istituti. come si diceva, ci sono tutte le dichiarazioni. Padoan anche dice che il bail-in è un'ipotesi esclusa, che le banche non hanno alcun, non c'è nessun problema di liquidità, e comunque con un comunicato stampa il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha detto che sotto il profilo della liquidità le due banche dispongono di tutte le garanzie pubbliche necessarie. Il governo è impegnato perché la soluzione sia definita in tempi rapidi, e è in corso il dialogo con l'Unione Europea, un dialogo che prosegue con il comune obiettivo di concordare una soluzione che garantisca la stabilità delle due banche venete e salvaguardi i risparmiatori, così il Ministero dell'Economia. L'amministratore delegato di Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola, dice: prendo atto delle dichiarazioni del ministro. Dunque, le due sentenze depositate di ieri del TAR del Lazio hanno bocciato la nomina di 5 dei 20 direttori di grandi musei effettuate in base ai criteri della riforma Franceschini. Il TAR ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per aprire le selezioni anche a candidati internazionali, e questo è un primo punto. E poi ci sono i criteri con i quali si è svolto l'esame, anche, che erano in dubbio. In una giornata un po' strana, tra l'altro, lo stesso TAR ha respinto un ricorso che però si basava su altri elementi, non quello della nazionalità, facendo sì che Heike Schmidt restasse direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, mentre Cecil Holberg alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Quindi le due nomine fiorentine restano in piedi, forse perché il ricorso fatto non prevedeva i punti che riguardavano gli altri ricorsi, però insomma, fatto sta che le cose stanno così. Quindi, come dire, agli Uffizi, alla Galleria dell'Accademia di Firenze restano gli stranieri, dalle altre parti no. Franceschini, come si diceva, ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato, ha detto che le nomine sono conformi alla legge. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore, che vanno in onda, come sapete, anche su RDS, su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Il TAR del Lazio ha inferto un duro colpo alla riforma dei musei e ha bocciato con due sentenze la nomina di 5 dei 20 direttori dei supermusei nati proprio con la riforma. Il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, ha già fatto sapere che ricorrerà contro le due sentenze. In particolare, il TAR ritiene che non fosse possibile aprire le selezioni a direttore dei musei a candidati stranieri, e ben 7 dei nuovi super direttori sono proprio stranieri, tra i quali 2 interessati direttamente dal verdetto del TAR. Quindi è chiaro che la riforma rischia di uscire piuttosto malconcia, ridimensionata da queste due sentenze. E questo sarebbe davvero un peccato, perché i risultati di questo primo anno di riforma mostrano che il sistema museale sta cominciando a funzionare meglio rispetto al passato. Lo dicono i dati di accesso ai musei, e il merito di questa ritrovata efficienza va riconosciuta anche ai nuovi direttori, compresi i 7 stranieri. D'altra parte, però, non è possibile attribuire al TAR, che deve ovviamente fare il suo mestiere, la colpa di questo stato di cose. La bocciatura che è arrivata sui criteri di nomina dei direttori è piuttosto pesante. Se il ministro intendeva aprire ai direttori stranieri la guida dei maggiori musei italiani, lo doveva fare con il supporto di una norma di legge che consentisse una deroga alle norme sul reclutamento del personale nella pubblica amministrazione. In questo caso, certamente, il TAR non avrebbe avuto nulla da obiettare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. A intervenire anche il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, dice: il fatto che il TAR annulli la nostra decisione merita il rispetto istituzionale che si deve alla giustizia amministrativa, ma conferma una volta di più che non possiamo più essere una repubblica fondata sul cavillo e sul ricorso. Venendo ad altro, c'è Alitalia che ha inviato alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali al Ministero dello Sviluppo Economico l'annuncio dell'avvio della procedura per la cassa straordinaria, procedura aperta per tutto il personale della compagnia di terra e di volo, con l'applicazione limitata al momento in proporzione alle necessità operative di gestione dell'azienda, pari sostanzialmente a 828 unità per il personale di terra, 190 piloti. Quando si dice 828 unità personale di terra, 190 unità piloti, 340 unità assistenti, ovviamente non si intende persone, cioè, ma costo del personale, cioè pari a 828 unità di costo per ogni persona del personale di terra, 190 per i piloti, 340 per gli assistenti. A chiudere, un buon dato per il mercato non residenziale immobiliare: nel 2016 più 16,1% nel corso dell'anno, sono dati dell'Agenzia delle Entrate, un anno positivo per le compravendite di negozi, con una crescita anche qua a doppia cifra del 15%. E veniamo al primo tema di giornata, che è esattamente il settore dell'auto e il settore della componentistica auto. A proposito del TAR, poi ci torneremo, no? Qualcuno scrive: siamo i soliti esterofili, ma all'estero fanno lo stesso. Guardate, è proprio di oggi la notizia che Claudia Ferrazzi, che prima lavorava, che una signora bravissima di Bergamo, di una quarantina d'anni, che ha avuto una carriera fulminante, che ha studiato anche in Francia e che prima lavorava al Louvre e che era appena tornata a Milano in seguito a concorso per occuparsi del marketing territoriale della città, è stata chiamata da Macron nella sua squadra esattamente per occuparsi di beni culturali. Quindi sì, all'estero fanno lo stesso, quando ci sono dei talenti non si vede perché non li si debba attrarre. Oh, invece sulla gag di cui sopra, no, sinceramente non credo che Sebastiano Barisoni abbia bisogno di scrivere quando torna Barisoni via SMS a Radio 24, quando lui non c'è, sinceramente. Allora, il settore dell'auto, come si diceva, siamo in diretta da Auto Promotech, 27esima edizione, una rassegna biennale internazionale delle attrezzature dell'aftermarket automobilistico, in programma fino al 28 maggio al quartiere Fieristico di Bologna, dal quale vi stiamo trasmettendo proprio all'ingresso, appena passati i tornelli dell'ingresso principale della Fiera di Bologna. Oggi ci siamo in diretta noi, poi domani ci sarà Deborah Rosciani, chiedo conferma all'altra parte del vetro a Elena Ligios che mi dice sì, domani ci sarà Deborah Rosciani e proseguiremo a trasmettere da qua. Veniamo però al cuore di tutto questo. Innanzitutto un'edizione con la partecipazione di 1651 espositori, con il 42% di presenze estere, 962 aziende che hanno scelto di partecipare alla manifestazione. Le nazioni con il maggior numero di espositori sono Cina, Germania, Spagna, Regno Unito, Taiwan, Polonia, Stati Uniti, Francia e Olanda. 14 padiglioni, 5 aree esterne, 158.000 metri quadri, 550 categorie. Marco Stella, vicepresidente del gruppo Componenti dell'Anfia. Buonasera Stella, benvenuto. Buon pomeriggio a lei e radioascoltatori. L'ANFIA è l'associazione che, come dire, che copre un po' tutta la filiera automobilistica. Allora, c'è qualche dato che abbiamo fornito già prima. Per quanto riguarda la componentistica dell'automotive italiano, nel 2016 i numeri sono i seguenti. 2000 imprese, oltre 130.000 addetti. Fatturato generato da 38,8 miliardi e quindi è un settore oggettivamente importante per la nostra economia. Protagonista indiscusso è il Piemonte e non potrebbe essere diversamente, vista la storica eredità di Fiat, adesso Fiat Chrysler. Da solo ospita 700 imprese con 55.000 addetti direttamente impiegati nella componentistica e fattura 15 miliardi di euro. È un settore anche di forte export e io vorrei partire proprio da qua, Stella, perché c'è uno snodo interessante da fare, un punto interessante da fare per quel che riguarda il potenziale impatto della Brexit, che da quel che ho capito vi sta spaventando molto. Ci dà un'idea di quel che succede? Lei ha giustamente detto, un ulteriore dato che conferma la salute della componentistica italiana è che la bilancia commerciale della componentistica italiana è positiva per circa 5,5 miliardi di euro, quindi c'è anche, come dire, questa fortissima vocazione all'esportazione. La preoccupazione certamente viene dal fatto che circa un miliardo di saldo positivo viene proprio dall'interscambio col Regno Unito. Il settore automobilistico è chiaramente un settore che esprime come caratteristica intrinseca l'integrazione di filiere globali e quindi ci sono forti scambi certamente con la Germania, che è il primo paese con cui ci sono andirivieni di merci e componenti auto, poi la Francia e la Spagna, ma certamente col Regno Unito c'è questa peculiarità, vendiamo loro molto di più di quello che riceviamo. E quindi appunto c'è una forte preoccupazione da questo punto di vista, più che altro mi sembra di capire in termini di incertezza, perché il punto è che noi siamo appesi in questo momento, un po' tutti, cioè, ovviamente lo sono i cittadini italiani e dei paesi europei che vivono là, perché non sanno come andrà a finire per loro, evidentemente. Lo sono presumibilmente gli stessi britannici che vivono negli altri paesi europei, lo sono molte aziende e il vostro settore appunto in particolare. Soprattutto mi sembra un tema di incertezza in questo momento, no? Senza dubbio, questo è il problema principale. Diciamo che l'incertezza non è una caratteristica richiesta in tanti settori, ma a maggior ragione quando si parla di economia e di industria. Chiaramente ci aspetta davanti un percorso di 2 anni nel quale i driver per la soluzione che verrà trovata tra l'Inghilterra, tra il Regno Unito e l'Unione Europea sarà guidata da fenomeni anche di natura politica, sociologica. L'industria da questo punto di vista, l'industria automotive in particolare, e devo dire che sotto questo profilo siamo, come dire, perfettamente allineati con sia i clienti che i colleghi inglesi, richiede prima di tutto certezza per gli investimenti, certezza su quali saranno gli impatti dal punto di vista doganale, certezza anche sulla circolazione delle persone. Questi sono 3 temi estremamente importanti. Sì, perché il settore automotive in genere, questo ci fa piacere ricordarlo, no? Perché è un'industria che ha i suoi anni, per così dire, però è anche un'industria che si basa moltissimo sull'innovazione e sulla ricerca. Quindi la necessità di avere quello che si può definire capitale umano valido e liberamente circolante sul territorio europeo è un altro elemento fondamentale, no? Assolutamente. È recentissima una dichiarazione dell'amministratore delegato della Jaguar Land Rover, che è il principale costruttore britannico, produce circa 500.000 veicoli all'anno ed è anche un fortissimo esportatore delle proprie auto, e circa un migliaio dei loro 40.000 addetti che lavorano per loro nel Regno Unito sono cittadini dell'Unione Europea. ovviamente cittadini dell'Unione Europea che lavorano lì principalmente nello sviluppo prodotto, nella ricerca, nell'innovazione, e quindi c'è una forte preoccupazione di come si potranno gestire, come dire, i rapporti con queste persone in futuro. Allora, noi adesso ci fermiamo un attimo, andiamo a sentire il meteo e poi la vorrei coinvolgere su un altro punto. Poi sentiremo anche le voci che il nostro Andrea Ferro, che sta girando da giorni qua all'interno di Autopromote, che ormai conosce i più reconditi anfratti di questa fiera, le voci che ha raccolto del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che oggi è venuto in visita qua, sentiremo anche quelle, però io vorrei coinvolgerla anche su un altro punto. Allora, il tema del quale ormai si tratta diffusamente in questo settore è il tema delle self-driving car che si guidino da sole del tutto o parzialmente, i sistemi di guida assistita, le innovazioni che riguardano anche banalmente gli pneumatici e i sistemi di trasmissione di informazioni alla stessa auto. Allora vorrei capire proprio la componentistica come si sta muovendo su questo fronte, quanto riesce a star dietro a quello che viene richiesto da questo punto di vista dalle case automobilistiche e, come dire, quanti investimenti ci vogliono anche appunto in termini di capitale umano, ma ne parliamo tra un attimo. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms, non per WhatsApp perché, come si diceva, siamo in esterna, qua qualcuno che suppongo che sia un tassista o qualcosa di questo genere ci scrive: perché inventare la macchina che si guida da sola per far sparire il guadagno dell'autista? Un mondo fatto di poteri forti e qualche programmatore. Allora, con tutto il bene, però il complottismo sul progresso, per favore lasciatemelo fuori. Io ve lo dico francamente, da utente, se i viaggi che mi faccio 6 volte all'anno per andare nel mio paese in Umbria, da Milano a Bevagna, che ci metto 5 ore, se me li facesse una macchina per me sarei solo che felice, in tutta sincerità. Qualcun altro ritorna sulla Brexit, dice: se la nostra roba è buona e costa meno, gli inglesi la comprano, basta scemenze. Il tema è esattamente questo, il tema è che se mettono le tariffe la nostra roba non costa meno. E su questo mi neanche le loro auto. Su questo mi sembra di capire, Marco Stella, che tra l'altro no, ci sia una concordanza tra voi e i produttori britannici, no? Ma assolutamente, da questo punto di vista l'industria automotive è coesa di fronte a questo argomento e richiede ai governi, come ci siamo detti prima, certezza, ma richiederebbe ovviamente di mantenere lo status quo, quindi di mantenere la libera circolazione delle merci, quindi di non alzare, come dire, barriere tariffarie, e anche la libera circolazione delle persone che possano continuare ad andare a lavorare, come dire, dove sono richiesti i loro cervelli o le loro braccia. E oltretutto, in questo senso, mi permetto di aggiungere che prima giustamente ha fatto notare che il Piemonte è tuttora il cuore pulsante dell'automotive, ma non posso da emiliano dire che ci sono anche tantissime, certo, altre eccellenze in tutta Italia, compreso il sud, che hanno la Motor Valley, esatto, che sarebbe esattamente nelle vostre zone. Ha una vocazione più specifica, però c'è, senza molto dubbio. Interessante. Senta, per chiudere invece sul tema delle self-driving car, dell'innovazione che sta oggettivamente entrando in maniera prepotente nel mondo dell'auto, in una maniera talmente veloce, se vogliamo violenta, trainata in realtà da gruppi che tradizionalmente non si occupano di automotive, come appunto Google, tanto per fare un esempio, o quelli che potremmo definire un termine inglese newcomer, cioè appena arrivati, come per esempio Tesla. Trainata da tutto questo, l'industria dell'automotive si trova di fronte a delle nuove sfide che riguardano innanzitutto chi progetta queste auto, ma anche voi che gli dovete poi fornire i componenti. Come vi state muovendo da questo punto di vista? La percezione che abbiamo noi da consumatori, lettori, ascoltatori, che il progresso stia avendo questo scatto, è lo stesso che avete voi dall'interno delle aziende oppure no? Ma mi permetto di aggiungere sfide e opportunità da questo punto di vista. È una realtà che già c'è, cioè già tante auto che girano oggi hanno svariate decine di centraline elettroniche che hanno la potenza di calcolo di 2 o 3 PC e diciamo all'incirca un 100 milioni di righe di software dentro, no? Per fare funzionare tutti i sistemi, e in più è già qui l'auto connessa, no? Tra un paio d'anni probabilmente sarà ancora più forte quest'idea, ma come dire, tutto ciò è realtà. Al di là degli scenari fantastici, tutto ciò rappresenta, come dire, il livello di innovazione che l'industria automotive esprime da sempre, da più di 10 anni, come ha ricordato lei prima, è una vecchia signora, ma che è sempre attiva e investe tantissimo in ricerca e sviluppo. I componentisti da questo punto di vista cercano di mettere a disposizione tutte le tecnologie necessarie che i costruttori vogliono utilizzare a diversi livelli e con diversi gradi di integrazione. Quindi in definitiva davanti a noi ci sono sfide e opportunità, ma come dire, in definitiva anche mutazioni dei modelli operativi di business che ci aspetteranno e, come ricordava, newcomers che entreranno nel settore. Anche recentemente ci sono state delle acquisizioni importanti, no? Un'importante industria automobilistica nordamericana si è comprato un pezzo di BlackBerry, per esempio, no? E via dicendo. Allora, io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, per averci accompagnato a raccontare questo settore, appunto Marco Stella, vicepresidente del gruppo Componenti dell'Anfia. Agli ascoltatori che esprimono perplessità, guardate ragazzi, nessuno vi impedisce di continuare a guidare le vostre, anche se arriva l'auto che si guida da sola e voi volete guidare la vostra auto, ma chi ve lo vieta? Tenete il volante, togliete il pilota automatico e guidate voi. C'è però, come ci sono dei fronti di innovazione hanno a che fare anche con la sicurezza, pensate all'assistenza, il cosiddetto lane assist, quello che ti assiste e fa sì che tu non esca dalla tua corsia, pensate a tutti i sistemi che servono a svegliarti se ti stai addormentando alla guida e mille altre cose che fanno parte di tutto questo mondo e che stanno facendo crescere in senso tecnologico anche l'industria dell'auto, auto che stanno sempre diventando più delle centraline di dati e sempre meno delle auto per come l'abbiamo intese fino ad oggi. Aggiungo, scusi sì. Se interrompo, ma aggiungo una cosa interessantissima, la quantità di dati che le auto connesse produrranno potranno consentire anche tantissimi servizi aggiuntivi che crescono attorno all'auto, nel senso che sì. Faccio un esempio, un'auto sì. Che esattamente al proprio posto manda informazioni sul meteo, ti dà una situazione molto più chiara e puntuale di com'è il meteo in quel tratto di strada. Certo. Allora grazie Stella per essere stato con noi. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, il traffico, poi sentiamo un paio di interventi del presidente di Confindustria Boccia di questa mattina, sempre qua ad Autopromotech, poi andiamo ai mercati e poi sì, arriviamo al TAR, a tra poco. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Allora, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia è intervenuto qua stamattina, ha detto che Autopromotech è un appuntamento cruciale per tutta la filiera automotive. E poi è tornato in parte anche sui temi di ieri, quelli dell'assemblea. Non basta un'industria per l'Italia, serve anche una pubblica amministrazione 4.0. Sentiamolo. 4.0 è stato parte di grandi proposte e convegni realizzati, stiamo facendo dei roadshow in Italia, nelle nostre associazioni oltre 10.000 imprese hanno già partecipato, a cavalcare la quarta rivoluzione industriale, la sfida del paese e dell'industria del paese in tutti i settori. La quarta rivoluzione industriale è trasversale ai settori, a partire dall'automotive, ma è una questione culturale, deve riguardare il paese, non solo l'industria. Questo paese non ha bisogno solo di un'industria 4.0, ha bisogno di una pubblica amministrazione 4.0 per costruire quello che abbiamo detto ieri, una società 5.0 che usi la crescita quale precondizione per eliminare diseguaglianze e povertà. Questa è la sfida che noi abbiamo lanciato non solo ieri formalmente in occasione dell'assemblea, che stiamo realizzando nelle fabbriche e che vorremmo si realizzi anche fuori dalle fabbriche italiane. E poi ha risposto alla leader della CGIL, Susanna Camusso, la quale aveva parlato della proposta di Boccia di azzerare il cuneo fiscale sull'assunzione dei giovani per i primi 3 anni. Camusso, che aveva detto è un intervento a pioggia, sentiamo Boccia. Il lavoro non sta crescendo, è evidente, perché quando c'è ripresa ripartono gli investimenti e poi riparte il lavoro, ed è il motivo per cui dobbiamo fare questo piano di inclusione. Rispetto alla posizione, ma non la condividiamo, non è un intervento a pioggia, è un piano shock per far entrare nel mondo del lavoro i giovani e recuperare competitività da parte dell'impresa. È un'impostazione totalmente diversa. E così chiudiamo il capitolo dedicato ad Autopromotech e passiamo ai mercati. Giornata fiacca quella di oggi, FTSE MIB meno 0,36%, FTSE All Share meno 0,23%, Parigi che cede lo 0,08%, Francoforte lo 0,17%, Londra che guadagna lo 0,04%, Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buonasera Andrea. Ciao, buonasera Simone. Allora, cosa dobbiamo questa giornata così un po' debole, soprattutto debole a Milano, Sì, beh, diciamo a livello generale sicuramente ha influito l'andamento del prezzo del petrolio, sta perdendo ancora il 2% sia a New York che a Londra, era molto atteso negli ultimi giorni questo incontro dell'OPEC da cui si aspettava un prolungamento dell'accordo sui tagli alla produzione fino a marzo 2018. Non sono arrivate novità differenti, cioè è arrivata una conferma di questo accordo, però anche con l'indicazione da parte di alcuni paesi, a cominciare dall'Arabia Saudita, che l'estensione dell'accordo non andrà oltre il marzo 2018. Quindi sono scattate le prese di beneficio sul prezzo del petrolio, che aveva perso che aveva guadagnato il 12% nel giro di 3 settimane, quindi gli energetici hanno sofferto in tutta Europa. A Milano a questo fattore si sono aggiunti anche il tonfo di Ferragamo, come già avvenuto ieri, su un'indicazione del 2017 più cauto di quello che ci si poteva aspettare, e anche i bancari un po' sottotono perché il tema del salvataggio delle banche venete ancora non sta trovando una soluzione chiara. Certo, il tema delle venete, tra l'altro ci arriveremo più tardi, lo faremo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Ferragamo, dicevi, tonfo meno 4,4%, per quanto riguarda gli energetici, in particolare quelli collegati direttamente al petrolio, Saipem meno 3,10%, Eni meno 1,8%, bancari BPM meno 2,9%, UbiBanca meno 2,5%, e a proposito di petroliferi, giù anche Tenaris meno 0,91%, Intesa San Paolo meno 0,82%. Abbiamo qualche titolo positivo: Italgas, Seti Microelectronics, CNH, ci sono motivi particolari, Andrea? No, non ci sono motivi particolari, ma fondamentalmente diciamo le utility si sono mosse bene una giornata difensiva, anche guardando un pochettino a quelli che sono i movimenti del mercato dei titoli di Stato e del mercato del reddito fisso. Qui si guarda molto a quello che faranno gli Stati Uniti a giugno sul tema dei tassi di interesse. Le indicazioni che sono arrivate dalla Fed sembrano lasciare ancora aperta la porta a giugno, ma i segnali dell'economia americana non sono così convincenti, quindi non è escluso, diciamo, che che la Fed possa prendersi altro tempo e normalmente in questo contesto diciamo vediamo invece i titoli difensivi che prendono un po' più piede. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere 24 Ore, in particolare oggi ad Andrea Fontana. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire GR24, ci ritroviamo subito dopo e veniamo finalmente al tema del TAR sui musei. E poi parleremo, come si diceva, di banche venete, di Veneto Banca, di Popolare di Vicenza. Tra poco. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia, sempre in diretta da Bologna, da Auto Promotech. Siamo finalmente al tema del TAR. Il TAR che ha preso queste decisioni per quanto riguarda i direttori dei musei, che nei titoli dei giornali sta passando come il TAR del Lazio dice no ai direttori dei musei perché sono stranieri, c'è anche questo elemento, ma non c'è solamente questo elemento. Per chiarire tutto abbiamo in linea Antonello Cherchi del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che lo vogliamo ricordare, con proprio grazie a Antonello ha dato la notizia questa mattina, cioè sul quotidiano di oggi c'era uno scoop del nostro Antonello Cherchi. Antonello, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, ci dai qualche spiegazione in più? Perché poi la situazione si è fatta piuttosto confusa. Se da una parte abbiamo la bocciatura di alcuni direttori di musei, che di fatto già non lo sono più e verranno sostituiti ad interim, come ha detto il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, dall'altra parte ce ne sono due che sono stati riconfermati in un'altra sentenza e sono i due fiorentini, per così dire, insomma, in un ricorso diverso, mi sembra di aver capito. Allora, aiutaci innanzitutto a distinguere le due cose, così cerchiamo di dare un'informazione corretta e precisa ai nostri ascoltatori. Vai. Sì, cerchiamo, sì, perché i vari fatti si stanno accavallando e spesso si uniscono eventi e ricorsi che non hanno hanno la stessa materia ma non hanno ovviamente gli stessi presupposti. Allora, iniziamo da ciò che ha detto ieri il TAR con due sentenze. Il TAR ha bocciato, diciamo, la riforma Franceschini, quella che ha previsto l'autonomia dei musei. I musei autonomi all'inizio sono stati 20, e poi se ne sono aggiunti degli altri, però insomma concentriamoci su questi primi 20. Questi primi 20 musei hanno dei direttori e il TAR ha detto che la procedura seguita per la nomina di questi direttori presenta delle falle, cioè va incontro ad alcune censure. Una delle censure, l'hai ricordata tu, è quella che i concorsi sono stati aperti agli stranieri e invece così non poteva, ma non perché in assoluto non si possa, perché non era stato previsto, qua siamo all'interno dei codici e delle norme, delle varie norme della nostra legislazione, perché per farlo doveva essere prevista una deroga ad una legge nazionale. Quindi si poteva fare, ma doveva essere prevista questa norma ad hoc. Altre censure invece riguardano proprio le valutazioni, i criteri di valutazione che la Commissione ha seguito per assegnare questi posti. Perché nonostante i musei siano all'inizio fossero 20, sono soltanto 6 i direttori che rimangono a casa. Anche a questo punto dovrò dire un'altra cosa perché la situazione si complica. Comunque diciamo, perché sono soltanto alcuni i musei? Perché ovviamente il TAR è intervenuto attraverso 2 ricorsi su alcuni istituti, alcuni musei che erano chiamati in causa da quei ricorsi. Per capirci, una ricorrente aveva concorso al posto di direttore della Galleria Estense di Modena e del Palazzo Ducale di Mantova. L'altro ricorrente invece aveva concorso ad altri 4 posti di direttore, che sono quelli di Pestum, del Museo Nazionale Archeologico di Taranto, di Napoli, di Reggio Calabria. Quindi in tutto 6 musei, è ovvio che sono quelli che sono stati interessati dai ricorsi e sono quelli su cui il TAR si è pronunciato. E dunque questi 6 direttori teoricamente da oggi non sono più operativi, rimangono a casa perché sì. Il TAR ha annullato gli atti di nomina. La novità di questo pomeriggio è che secondo un'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero dei Beni Culturali, il museo di Pestum, che ha un direttore straniero, non sarebbe coinvolto dalle sentenze del TAR. Quindi in buona sostanza il direttore di Pestum rimane in carica, gli altri 5 invece per il momento devono lasciare il loro incarico. Quindi questa è la situazione che ha creato le sentenze di ieri. Poi ovviamente c'è stato un accavallarsi di notizie per cui ci si è chiesti: ma come mai il TAR era intervenuto qualche giorno fa su una materia simile, cioè sempre su ricorsi contro la nomina di direttori, e aveva rigettato quei ricorsi? Sono stati diversi questi ricorsi che il TAR ha rigettato, però attenzione, perché la materia è la stessa, quindi nomina dei direttori dei musei autonomi, però i presupposti di partenza dei ricorsi, quindi la situazione in cui si trovavano i ricorrenti, era diversa da quella dei ricorrenti dei ricorsi sui quali il TAR ha deciso ieri. Quindi adesso non certo, stiamo entrando nei dettagli. Esatto, non entriamo nei dettagli, però appunto il TAR è intervenuto sui singoli casi e sulla base dei singoli casi ha giudicato evidentemente. Quindi sì. Simone, scusami se ti interrompo, stata nessuna marcia indietro ieri o nessun dietrofront del TAR rispetto ai giorni passati, ecco, questo va chiarito. Allora, io voglio intanto salutare Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum PA, Forum PA che tra l'altro si è chiuso oggi, quindi in un momento estremamente adatto. Mochi Sismondi, buonasera. Buonasera a Spezia e a tutti gli ascoltatori, buonasera. E bentornato dunque ai nostri microfoni. Prima di venire da lei, voglio chiudere con Antonello Cherchi con una domanda che riguarda proprio la norma che è stata fatta appunto per la nomina di questi direttori e che è e che ha creato il problema e ha generato la sentenza del TAR, soprattutto la parte che riguarda i direttori stranieri, cioè il fatto che non siano di nazionalità italiana e che non sia stata prevista un'espressa deroga all'interno della legge. Qua c'è un tema di chi ha redatto questa legge e come è stata redatta, perché se da una parte abbiamo un ministro dei beni culturali che è stato anche sottosegretario alla pubblica istruzione, alla funzione pubblica, e questo dobbiamo dircelo, e quindi forse qualcosina da questo punto di vista avrebbe dovuto sapere, dall'altra parte c'è sempre il sospetto, Antonello, che ci sia la manina del burocrate, che poi è quello che fattivamente, no, scrive la legge, e che, come dire, pur sapendo questa cosa abbia volutamente o in qualche modo omesso, no, di segnalarla nel dovuto modo al responsabile politico. Potremmo anche pensare questo, però mi sentirei di escluderlo, Simone, perché la situazione, secondo me, almeno sulle prime valutazioni che si possono fare, sono queste. Si è deciso di andare avanti, quindi non fare una norma ad hoc, perché si pensava che la normativa comunitaria lo permettesse. Ecco, anche questa può essere un'interpretazione, anzi è l'interpretazione che il Ministero dei Beni Culturali ha sposato quest'oggi, e probabilmente sarà la tesi difensiva di fronte al Consiglio di Stato. E cioè c'è una normativa che impone la libera circolazione delle persone e la libera possibilità di lavorare nei vari paesi europei, e quindi evidentemente questa normativa, che è la normativa europea, sopravanza, no, eventuali limitazioni che possono essere contenute nella legge italiana. Questa è la tesi di Franceschini, in sostanza. Può essere questa l'interpretazione che sosterranno, sì sì. Allora, io ti ringrazio, grazie intanto ad Antonello Cherchi del Sole 24 Ore, lo ripetiamo, Sole 24 Ore è stato il primo a dare la notizia. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi andiamo con Carlo Mochi Sismondi per commentare ancora questa vicenda che, se vogliamo, espone un po', no, quello che è uno dei grandi problemi italiani, insomma la difficoltà di far avanzare proprio la pubblica amministrazione. Oggi si è appunto chiuso il forum PIA e di questo parleremo con lui, a tra poco. Focus Economia. Ci scrive via SMS al 349-238-6666, lo cito perché si firma nome, cognome e qualifica, il professor Massimo Balducci di Scienze Politiche, insegna Scienze Politiche a Firenze, dice: quando la norma nazionale contrasta, come in questo caso, con la norma europea, si disapplica la norma nazionale. In Francia ci sono dei cittadini tedeschi che sono ambasciatori, ci riferisce il professor Balducci. Di fatto, però, Mochi Sismondi, questa è ancora una volta una testimonianza di quanto è difficile mettere le mani nella pubblica amministrazione, come dire, senza incorrere nel TAR del Lazio, che ormai è una sorta di figura mitica, no? Una specie di bau bau del legislatore, degli uffici, sì, legislativi. Insomma. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì. Assolutamente, che... guardi, mi dica. Prego, prego. No, dicevo, quando noi abbiamo chiesto a un panel di 1700 dirigenti pubblici qual era il problema principale, sono stati unanimi. Il problema principale è l'eccessiva produzione di norme e la confusione tra normative diverse. Ma quindi non hanno detto il TAR del Lazio. No, ma forse ce l'avevano in testa, fotografato mentre rispondevano a questa domanda. Cioè, è chiaro, per cambiare bisogna avere chiarezza delle norme. In un paese in cui le norme sono, nessuno di noi è mai sicuro di essere in regola, chiaramente cambiare è impossibile. È impossibile. E che succede? Che il dirigente pubblico dice: ma sapete che c'è? Quando mi imporranno una novità la farò. Fino adesso mi astengo, perché tanto non potrò mai essere sicuro di essere in regola. Stiamo facendo del danno grave al paese, proprio grave, grave, grave al paese. Sì, come dire, è l'impossibilità, se vogliamo, no? Quasi l'impossibilità di far agire i dirigenti pubblici e i dipendenti pubblici, proprio perché la quantità di norme è tale e spesso sono talmente in contrasto tra loro che nemmeno loro riescono più a capirci nulla. Poi ci sono quelli che ci mettono responsabilità, certo, un groviglio di responsabilità. Sì, e poi ci sono quelli che ci mettono anche la cattiva volontà, e lo sappiamo. Però parliamo della parte sana della pubblica amministrazione. Anche la parte sana della pubblica amministrazione, da questo punto di vista, fatica, quindi. Assolutamente sì. Questo tema del quella che io chiamo burocrazia difensiva, cioè il dirigente pubblico si difende usando il sistema che può, cioè non firma, non decide, chiede un parere all'ANAC, abbiamo anche un altro organismo mitico, chiede un parere al Consiglio di Stato, chiede un parere a chiunque pur di non prendere una decisione. Quando la prende con autonoma discrezionalità, come in questo caso un direttore generale ha scelto in una terna di possibili candidati quello che riteneva intuito persone sulla sua responsabilità il migliore, gli si dice che è un processo magmatico di valutazione. Allora facciamo scegliere gli algoritmi, ma poi non ci lamentiamo se abbiamo un paese senza responsabilità. Sì, lei ha citato esattamente quello che dice il TAR, perché oltre a questa vicenda degli stranieri c'è il tema della selezione, di come è stata effettuata la selezione. Addirittura il TAR contesta che in alcuni casi i colloqui sono stati fatti via Skype, ma insomma, del resto, se sono stranieri e stanno dall'altra parte del pianeta è un po' complicato. Guarda, no? È veramente, se non fosse tragica, sarebbe grottesca questa situazione, ridicolamente grottesca. Allora, il colpevole è Skype, il colpevole è un dirigente che ha scelto autonomamente sulla sua responsabilità di preferire A, B o B a C, Dopodiché noi diamo con questa pubblica amministrazione che non può decidere, non può usare Skype, non può usare la regolamentazione europea, ma deve fare una deroga a una legge italiana per accettare una regolazione europea, con questa vogliamo cambiare la nostra burocrazia? Non ce la faremo mai. Da Forum PIA escono parole di speranza, poi alla fine di questi 3 giorni di speranza uno si ritrova una sentenza del genere alle 6:30 quando ha avuto il tempo di leggerla e ti viene addosso un mattone addosso e dici boh, forse non ce la faremo mai, o forse come twitta Renzi, io non sono sempre d'accordo con Renzi, abbiamo cambiato i musei ma forse dobbiamo cambiare anche i TAR, questo non voglio dire, ognuno ha il suo modo, non voglio dire la sentenza l'ho letta con più attenzione, sacro rispetto per la magistratura, ma la prima reazione è un po' arrabbiata, le devo dire sinceramente. Grazie Carlo Mocchi Sismondi per essere stato con noi, presidente di Forum PA, Forum PA la cui edizione 2017 si è appena conclusa, si è conclusa nella giornata di oggi, per chi volesse, insomma, anche un sunto dei lavori anche sul loro sito, trovate le dirette video, tutti gli appuntamenti che ci sono stati, oggi il ministro Padoan, nei giorni scorsi anche la Madia. Grazie Carlo Mocchi Sismondi, a chiudere abbiamo ancora pochi minuti per fare un punto sulle due banche venete. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ieri sono arrivati dei segnali di grande preoccupazione sul fronte della trattativa con l'Europa per la ricapitalizzazione, soprattutto dal lato della necessità di capitali privati. Dall'altra parte, questa mattina sono invece arrivati segnali tranquillizzanti dal ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Mettiamola così, in realtà non poteva essere diversamente, cioè non potevamo certo aspettarci che il ministro dell'economia dicesse insomma sta andando tutto a scatafascio, però insomma il comunicato del tesoro è abbastanza netto, cioè siamo disposti a fornire le garanzie pubbliche finché ce n'è bisogno, no Marco? Sì, il tesoro ha detto quello che poteva dire, cioè che essenzialmente la liquidità delle due banche, quindi Veneto e Vicenza, ma anche Montepaschi, che rispetto a questo tema è sulla stessa barca, è garantita da quello che l'Italia ha già ottenuto dall'Europa. Padoan ha anche escluso il bail-in, ieri dopo che questo incontro a porte chiusissime aveva comunque fatto emergere segnali non positivi, ieri notte, si è diffuso un po' questo allarme che lo spettro del bail-in possa concretizzarsi da un momento all'altro. Padoan l'ha escluso, comunque trovare una quadra finanziaria, tecnica, politica rimane molto molto difficile. Le trattative con l'Europa vanno avanti, dice Padoan, e nel comunicato non è che abbiano parlato di trattative che vanno avanti in maniera positiva, insomma l'idea è che siano trattative comunque abbastanza tese, perché poi come dicevi tu giustamente in ballo c'è anche la vicenda MPS, insomma non ci si limita solamente a Veneto Banca e Popolare Vicenza. Sì, è così, Montepaschi sembra molto meglio avviata, se non altro perché è partita prima, se non altro perché è disciplinata dal decreto poi diventato legge, quindi diciamo alle spalle più coperte, quindi sembra oltre la metà del guado. Sulle due venete rimane il tema delle risorse aggiuntive private chieste dalla Commissione europea, 1 miliardo, forse anche qualcosina in più, di contributi pubblici, quindi di investimenti, scusate, privati in più da inserire nel pacchetto complessivo da 6,4 miliardi. In teoria si potrebbero trovare, non fosse che quel miliardo è destinato praticamente a volatilizzarsi quasi subito dopo che verrà investito nelle banche, perché le banche devono ancora fare una grande pulizia di crediti deteriorati e il primo capitale a essere eroso sarà quello. Ecco perché la richiesta, che apparentemente potrebbe sembrare, come dire, accettabile, in realtà sul piano pratico è ben difficile da essere soddisfatta. La voce di queste ore è che si stia di nuovo cercando di tirare per la giacchetta le banche sane, perché l'alternativa che viene posta loro è una possibilità di coinvolgere gli obbligazionisti senior delle due banche, questo avrebbe ripercussioni su tutti, però ripeto non sembra facile trovare in qualche modo una soluzione. senza considerare, Marco, lo ricordiamo sempre, il consueto rischio avvitamento, no? Perché tu stai là, aspetti, inizi le trattative con la Commissione Europea, parli con la Banca Centrale, nel frattempo i mesi passano, il capitale si erode ulteriormente e quando finisce questo periodo hai bisogno di ancora più capitale di quanto, non avessi bisogno prima, no? Sì, e questo è un aspetto paradossale e forse anche aberrante di questa vicenda. Da un lato non dimentichiamo che sono regole nuove in vigore da poco più di un anno e quindi tutti un po' le stiamo sperimentando, ma le stiamo sperimentando sulla nostra pelle. Peraltro l'elemento veramente più incredibile è che le risorse private in più sembrano essere destinate a coprire le perdite sulle sofferenze maturate in questo primo trimestre dell'anno, cioè quello utilizzato per le trattative. Io ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, così andiamo a chiudere questa puntata di Focus Economia in diretta da Bologna, da Autopromotech. Le trasmissioni di Radio 24 proseguiranno anche domani da Bologna, non ci saranno più Effetto Giorno e Focus Economia, ci saranno Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone. I ringraziamenti vanno a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e redazione, Roberta Frisani, Alessio Petrucci e chi c'è a Milano in regia? Andrea Roccabella, l'abbiamo colta finalmente, perché poi hai voglia a chiedere, ho le cuffie con sotto la base di Focus Economia, loro mi dicono le cose, io non le sento, che dobbiamo fare? Una buona serata a tutti da Simone Spezia, ci sentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, libera la voglia di fare.